Bene, allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento di questo ciclo di incontri e presentazioni che abbiamo chiamato Lavoro oltre capitalismo. Benvenuti a Casabettola, ringrazio tutti voi di essere qua stasera e ringrazio anticipatamente i nostri ospiti, poi Stefano e Roberto che eseguiranno la presentazione, avranno poi il piacere di presentarci, di presentarvi meglio di come lo sto facendo io adesso. Io mi limito a ringraziarli anticipatamente della presenza. È un ciclo che abbiamo pensato perché abbiamo bisogno di riprendere in mano una teoria sul mondo del lavoro, abbiamo bisogno di cominciare a parlare di noi in quanto lavoratori. E abbiamo bisogno di farlo, abbiamo un estremo bisogno di farlo. Lavoro oltre il capitalismo, questo nome abbiamo dato, lo abbiamo dato per tre ordini di motivi principali che riguardano bene o male le trasformazioni che sta avendo il mondo del lavoro. La prima, quella più, diciamo, imminente, è quella riguardante il lavoro, il come può cambiare il lavoro in questa nuova era del mondo, non solo del sistema sociale, ma proprio in generale. Quindi di come il lavoro potrà e sicuramente cambierà con la socializzazione dell'intelligenza artificiale. Ci sono già state varie analisi nel recente passato rispetto a questo, ma pensiamo che abbiamo bisogno di analizzarlo anche dal punto di vista operaio, dal punto di vista dei lavoratori, non solo da un punto di vista capitalistico, non solo dal punto di vista degli studiosi, no? Della materia. E comunque c'è da dire anche, sottolineato che ci interessa parlarne anche perché è un cambio di epoca simile, possiamo dire simile a quando fu socializzato internet rispetto a quello che c'era prima di internet e quindi l'impatto non lo conosciamo, ma abbiamo bisogno di preparare la nostra parte ad aggredire i nodi critici che potranno nascere, no, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E il secondo ordine di discorso è perché comunque con questa nuova era inaugurata da Trump di ritorno ai dazi o che si è data anche già prima che arrivasse Trump di un ritorno importante dello Stato nell'economia, si dice che oggi quasi il 60% del capitale che circola, che viene scambiato, è garantito dallo Stato. E quindi questo è un grosso cambiamento rispetto all'ideologia neoliberista che ha agito incontrastata negli ultimi 30 anni. E quindi anche questo è un passaggio significativo che abbiamo bisogno di elaborare da parte lavoratrice. Il terzo discorso è perché secondo noi abbiamo bisogno di riportare al centro e soprattutto al centro del nostro mondo, del mondo di sinistra, la lettura di classe dei processi sociali e politici. Anche perché non ci può bastare, anzi, rifiutiamo una lettura dei rapporti politici e sociali solo secondo i dettami che vanno tanto di moda oggi della geopolitica, perché non sono per noi utili a poter organizzare la nostra parte, quindi a poter organizzare quella controparte in grado di poter fare delle lotte non solo importanti, ma che possono comunque ritornare, farci ritornare ad essere protagonisti e a poter parlare di un possibile, di un cambiamento utile e che noi consideriamo utile è necessario rispetto al sistema sociale capitalistico. Ecco, questo a grandi linee sono le tre, tre basi sulle quali abbiamo deciso di creare, di mettere in piedi questo ciclo di incontri, che è fatto di incontri di discussione politica, incontri di presentazione di libri. Oggi iniziamo con la presentazione di libri, questo è un incontro a Casa Bettola. Quindi vi ringrazio ancora di essere qua, lascio la parola a Stefano e Roberto e buona presentazione a tutti. No, intanto un saluto e un benvenuto a tutte le persone presenti in sala. E, una precisazione, come vedete, vi presento appunto i nostri ospiti partendo da Marta Fana, che è in collegamento da Parma perché per un imprevisto non è riuscita a essere presente con noi, ma siccome sia lei ci teneva molto e anche noi ci tenevamo molto alla sua presenza, e abbiamo appunto fatto questo collegamento online e per un'oretta adesso lei poi dovrà scappare, ci farà un segno, però sicuramente potrà partecipare alla prima parte di questo incontro. Marta è una ricercatrice in economia e appunto è una delle autrici e degli autori che ha contribuito al libro che andremo a presentare, che ci servirà per partire come spunto per partire con le nostre riflessioni e ragionamenti. E dicevo che è ricercatrice in economia a Parma, si occupa di cambiamenti strutturali dell'occupazione, organizzazione del lavoro, dinamiche salariali e disuguaglianze sociali. È anche autrice di Non è lavoro, è sfruttamento e coautrice di Basta salari da fame. E, accanto a me c'è Giovanni Iozzoli, che è anche lui è uno troverete anche un suo contributo all'interno del libro. È un operaio e scrittore. Tra gli anni 80 e 90 ha militato nei movimenti napoletani per la casa e il lavoro. Da molti anni vive qua vicino, no? A Modena. Lavora in un'azienda metalmeccanica in cui è delegato sindacale. Ha scritto vari libri, sei romanzi, doveva portarli, non li ha portati, li avremo prossimamente sul nostro banchetto. E ha partecipato anche alla scrittura di vari libri collettivi ed è redattore della rivista Carmilla Online, che è un'ottima rivista fondata da Valerio Evangelisti. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo Lorenzo Teodonio, che è soprattutto un amico. Lorenzo è un insegnante e si occupa di storia del Novecento, in particolare di resistenza e operaismo. Appunto, ha curato insieme a Mario Tronti il libro di cui parleremo, per un Atlante della memoria operaia. È già stato nostro ospite perché ha scritto quando abbiamo presentato Razza Partigiana e da poco è entrata anche nella Federazione delle Resistenze, che è appunto un collettivo di cui anche noi come Casa Bettola con uno dei progetti Arvegnoc Urban facciamo parte, ci occupiamo di guerriglia odonomastica. E partirei per inquadrare un attimino anche di cosa stiamo parlando. Partiamo appunto dal libro. Mario Tronti, nel suo contributo al libro, sostiene che sia mancata un'antropologia operaria, contrariamente a quanto invece hanno fatto i borghesi, che le loro forme di vita le hanno ben coltivate e soprattutto narrate. Quindi è il momento di vedere l'operaio dal di dentro, come persona nel suo spazio umano. E con questo libro, Lorenzo, e poi ovviamente la domanda è collettiva a tutti gli ospiti, avete cercato di fare questo, e soprattutto in un'epoca di individualismo, avete cercato di farlo in maniera collettiva. Non so se ci vuoi cominciare un po' a raccontare come è nato e come si è sviluppato il pensiero che poi ha portato a questo libro. Grazie Roberto, grazie Stefano e grazie Casa Bettola, che come al solito è un posto bellissimo dove è sempre piacevole venire. Il libro è una cosa complicata, questo libro, nel senso che prima raccontavo che molto spesso quando l'abbiamo proposto veniva visto come un'antologia. In realtà non è un'antologia, in realtà è una raccolta sì di cose varie, e l'abbiamo pensato con Mario Tronti circa da una decina d'anni. Poi Mario purtroppo è morto 2 anni fa, e però il libro ha avuto una gestazione lunghissima che risale sostanzialmente all'inizio alla metà del decennio scorso, quindi verso il 2015-2016. E nasce proprio da questa intuizione che ha avuto Mario, cioè di raccontare l'antropologia operaia, cioè di andare oltre la descrizione che era stata sempre fatta degli operai in termini sociologici, in termini politici, ma proprio cercare di, in qualche modo, cercare l'anima operaia. E Tronti si è formato molto sul giovane Lukács, e ci piaceva tanto quel libro che si chiama Le anime e le forme, che tra l'altro citiamo nel libro. Le anime e le forme nel senso che l'anima che noi volevamo raccontare era proprio quella dell'operaio, e le forme sono varie. Le forme sono all'interno di questo libro molteplici. Da una parte ci stanno i racconti, appunto Giovanni ha scritto un racconto, quindi sicuramente una cosa che parte dalla sua esperienza personale, però di fatto una cosa di narrativa, come di narrativa sono altri interventi, penso a quello di Simona Baldanzi che parla della pallavolo e altri tipi appunto di racconti. Poi c'è una parte diciamo più di saggistica, fra cui il saggio di Marta, c'è un altro saggio di Sergio Bologna, e quindi c'è una parte diciamo più di analisi di quello che potrebbe essere oggi il lavoro. C'è una parte di immagini su cui abbiamo tra virgolette investito molto, cioè abbiamo parlato con questo fotografo che si chiama Marco Merlini, che appunto dopo magari vi proietto anche qualche foto, perché le foto sono molto importanti, le immagini sono molto importanti. Abbiamo parlato con Alessio Duranti, che è un altro fotografo toscano, quindi ci stanno svariati contributi diciamo di immagini, e le immagini hanno anche poi inevitabilmente come si può dire, si sono state aggiunte anche immagini disegnate, quindi ci stanno due fumetti, uno storico fatto e trovato da Giuseppe Filippetta all'interno di un archivio, non l'Istoreco, un altro di queste parti, diciamo, mi pare quello di Modena, e sì, l'Istoreco di Modena, e poi c'è invece un fumetto diciamo contemporaneo fatto da Giuseppe Palumbo e Pierangelo Di Vittorio, in cui appunto, poi semmai ve lo proiettiamo qualcosa, in cui appunto si parla un po' di più, e quindi poi andiamo un po' più addentro agli ispiratori del libro, appunto al di là dell'aspetto di raccontare il lavoro, il metodo che ci siamo dati è questo che abbiamo preso da Abby Warburg. Abby Warburg è stato un importante figlio della famiglia Warburg, quindi i più ricchi del mondo, che all'inizio degli anni 10 del Novecento in qualche modo dirazzò da questa famiglia e si mise a fare lo storico dell'arte. E Abby Warburg all'inizio del secolo scorso, del Novecento, volle fare una cosa che chiamò mnemosine, che era un atlante di immagini tratte dall'antichità e dalla contemporaneità, in cui mischiando materiale del passato e materiale della sua contemporaneità voleva in qualche modo raccontare la vita vera. Ecco, noi ci siamo ispirati ad Abby Warburg e in qualche modo abbiamo fatto un tipo di operazione analoga. Se volete ora vi faccio vedere, tanto ci abbiamo i potenti mezzi, quello che era sostanzialmente la nostra idea iniziale. La nostra idea iniziale era fare questo tipo di pannelli qua, ok? Abby Warburg, scusate, eccolo, Abby Warburg faceva la stessa identica operazione, cioè prendeva dei pannelli neri e ci metteva delle immagini. Immagini che erano appunto, questa abbiamo chiamata Lake of Time, e ci stanno tutta un'immagine di orologi, con dall'alto a sinistra c'è quella politica diciamo del partito, figuriamoci, socialista italiano, allora dei socialisti, qui in mezzo c'è un manifesto storico della battaglia per le 8 ore di lavoro, qui c'è un'immagine del primo maggio francese, qui c'è un'immagine sovietica, qui c'è Chaplin quando no, e lì c'è l'immagine invece di dell'altro Buster Keaton quando in un film di questi storici distrugge l'orologio del grattacielo di New York. Quella è un'immagine di un orologio di Bruno Munari. Cioè abbiamo cercato di mischiare e di fare appunto una mostra che in qualche modo potesse raccontare il lavoro. Poi per tutta una serie di motivi questa cosa è stata fatta in maniera appunto libresca di un atlante che realmente sia una specie di atlante, quindi di un libro. Quindi da questa idea iniziale, che appunto risale alla metà del degli anni 10 di questo secolo, abbiamo deciso di fare questo libro. Poi abbiamo anche provato, ve lo faccio vedere dopo, a fare anche proprio dei pannelli anche su altre storie. Questa era la cosa a cui facevamo riferimento prima della Resistenza. E appunto è un po' questo personaggio che sta qui a Bear Harbor che ci ha ispirato. Questa è una frase di un libro di Tronti in cui appunto in qualche modo, prima che facessimo il libro, già parlava di questo Atlante del movimento operaio, ok? Quindi questa era un po' l'idea iniziale. Quindi ci siamo rivolti a tutte persone come Marta, come Giovanni, che in qualche modo con il loro contributo hanno un po' dato anima e forma, appunto, anzi l'anima e le forme, a questa idea di in qualche modo costruire un'antropologia degli operai. Quindi questo è stato un po' il lavoro iniziale. Il lavoro iniziale però si è cristallizzato in questo libro, che però appunto poi interrompo qui la risposta, poi se ci stanno altre cose sul libro in sé fatelo, perché appunto è un libro un po' difficile da presentare, perché appunto ci stanno talmente tanti contributi diversi che poi ogni presentazione poi prende una piega. Per esempio, se ci stanno gli autori che hanno scritto qualcosa, è chiaro che poi giustamente parliamo magari più del loro lavoro. E l'ultima cosa che volevo dire è che questo titolo allude a un per un Atlante della memoria operaia, cioè allude a un qualcosa che si va costruendo. Questa è un po' l'idea che abbiamo avuto, cioè il libro non è sicuramente ha una forma cartacea perché ce la deve avere, però sostanzialmente quello che vorremmo fare è che in qualche modo che intorno a questa idea di un libro che alluda alla costruzione di un Atlante, quindi sì, è lui stesso un Atlante, ma anche per un Atlante, quindi eventualmente capire poi come procedere e come dare ancora più forme a quest'anima che vogliamo raccontare. Una cosa che volevo chiedere, partendo da Marta e Giovanni, che hanno dato un grande contributo ed analisi a livello narrativo all'interno del libro, sono, considerando anche il periodo storico, mi vengono in mente due notizie da riportare. Una sono le dichiarazioni del sindaco leghista di Ferrara, che si vanta appunto del DASPO a 7 senza tetto in un momento storico in cui la povertà dilaga nel paese, quindi che vengono espulsi dei senza tetto dalla città non mi meraviglia, ma che questa cosa venga rivendicata politicamente è un segnale molto grave. Un altro è l'attacco alla siderurgia, al settore dei metalmeccanici da parte del governo, che a quanto pare scomparirà entro marzo, quindi un attacco ulteriore alla classe operaia, che voi descrivete bene nel saggio analitico e per quanto riguarda il racconto narrativo tramite la frammentazione di classe. Mi volevo fermare su questo concetto, ecco, la frammentazione data sia dall'aspetto contrattuale che dall'aspetto etnico. Se ci potete descrivere appunto questa condizione attualmente della classe lavoratrice e dare anche delle dritte per superare questo livello di frammentazione. Partiamo da Marta? Thank you. Sì, grazie. Negli spazi occupati e ho memoria di posti occupati che ovviamente non erano come questi. Quindi complimenti anche per la cura quotidiana che mettete in questi spazi. Ma forse spende. Mi sa che è spesso. Ok, va bene. È acceso, è acceso. No, prima si parlava di appalti interni. Gli appalti interni sono stati la delocalizzazione su scala interna. Se vi ricordate, negli anni 90, quando si aprivano le grandi praterie a est, molti imprenditori italiani spostavano le produzioni o rami di produzioni verso l'Ungheria, verso la Slovenia. Qualcuno, evidentemente più intelligente, perché là trovavano condizioni ovviamente di sfruttamento, di tutela del lavoro, dell'ambiente, eccetera, eccetera, che erano molto più favorevoli. Qualcuno evidentemente ebbe l'idea di dire: ma perché invece di esportare la nostra produzione in Romania, che è una cosa faticosa, brigosa, eccetera, eccetera, non importiamo qua le condizioni della Romania? L'idea è stata questa e ha funzionato. Cioè, gli appalti interni non sono altro che questa specie di delocalizzazione a chilometro zero. Cioè, adesso dentro le nostre aziende, soprattutto in quelle un po' più robuste, ma non solo nei grandi stabilimenti, ormai anche nelle medie aziende, è una cosa normale trovare 5, 6, 7 aziende differenti che stanno dentro lo stesso perimetro aziendale e occupano ovviamente rami produttivi organizzativi differenti. Poi c'è tutta una gerarchia dei diritti e dei salari, quindi persone che fanno lo stesso lavoro, spesso con la stessa felpa, la stessa tuta fornita dal committente, però hanno situazioni contrattuali e anche di vita che sono molto differenti. Quindi questo ormai è diventata la normalità, ma l'abbiamo vista nascere questa cosa qua e i sindacati non hanno avuto l'intelligenza, la forza di contrastarla, anche perché alle volte faceva anche comodo, per esempio nel settore agroalimentare, nei macelli, nei posti dove si fanno lavorazioni più dure, mi raccontavano i vecchi del mestiere che il fatto che arrivasse l'immigrato a coprire quel pezzo lì era comodo per tutti, anche per, diciamo, il corpo delle maestranze autoctone. Poi la cosa, come sempre, degenera e diventa fenomeno di massa pericolosissimo, perché il livello di frammentazione a cui siamo arrivati adesso rende spesso molto difficile la pratica sindacale di qualsiasi tipo. Quindi bisogna inventarsi la contrattazione di sito, cioè siamo in una condizione per cui quello che fino a 20-30 anni fa era abbastanza normale adesso diventa un'impresa straordinaria. Voglio dire due cose sul libro. Allora, Lorenzo ha parlato prima di questa suggestione troviamo la parola? Ecco, giusto. Che è molto bella, costruiamo l'Atlante, però attenzione che per fare queste cose è necessario che i libri girino, che vengano comprati, che vengano regalati. Questa è la base di qualsiasi progetto politico editoriale. Quindi io vi invito a comprare il libro, siamo sotto Natale, anche a regalarlo, farlo circolare, perché se no nessun progetto ha respiro. Sono libri che nessun grande editore e neanche medio editore pubblica, proprio per la loro complessità e per la loro profondità. Dobbiamo essere noi a creare circuiti editoriali e anche platee di lettori che sono, come dire, degne di questo tipo di progettualità, che è ambiziosa e che può girare solo in posti come questo, in circuiti come questo. Dentro l'introduzione di Tronti c'è quasi tutto lo spirito della, a parte che credo sia una delle ultime cose che Tronti ha pubblicato con la sua firma prima di lasciarci, è così, quindi sì. Già solo questo nobilita molto anche, diciamo, il valore storico di questa pubblicazione. Dice Tronti: noi abbiamo ragionato negli anni 60, ci siamo inventati la categoria composizione di classe, l'abbiamo articolata composizione tecnica, composizione politica, e ci siamo dimenticati la composizione umana, cioè appunto l'antropologia del lavoro. Tronti è stato uno dei padri nobili dell'operaismo italiano, ma qual è stata la specificità dell'operaismo e perché in qualche misura siamo ancora qua a parlare dell'operaismo decenni dopo? Perché l'operaismo si basa sullo studio della produzione di classe operaia, cioè mentre il marxismo classico si era occupato della produzione del valore e del plusvalore, gli operaisti cominciarono a occuparsi della produzione di classe operaia, del meccanismo di produzione e riproduzione della classe operaia e di che tipo di caratteristiche aveva questa merce specialissima che è il lavoro umano, il lavoro vivo. Siamo dentro un'attualità da questo punto di vista. E l'operazione, l'opera, il progetto che ha messo in piedi Lorenzo cerca, secondo me, di catturare questa complessità. Lo fa usando una varietà di linguaggi molto differenti. È un'operazione complicata, difficile, non velleitaria, perché l'ha saputa gestire, secondo me, però appunto questa restituire questo caleidoscopio, no, di facce, di volti, di immagini, di storie, di sfighe, dà al lettore la sensazione del fatto che quando si parla di lavoro non si sta parlando di un'astrazione, ma si sta parlando di noi tutti. È difficile parlare della, o raccontare o costruire un'antropologia del lavoro, perché ci troviamo al nodo fondamentale del racconto. Scusate, qui da una mezza non ho capito cosa dire. Ma c'è l'area sociale sottofondo là. Antropologia del lavoro significherebbe la capacità di autoracconto della classe, no? I borghesi, diceva Tronti nella sua introduzione, sono stati bravi su mille piani differenti a raccontare se stessi e i propri valori fino a eternizzarli, fino a darci l'idea che fossero valori eterni, immutabili. Bisogna che le classi operaie siano in grado di fare altrettanto. Il nodo davanti a cui ci troviamo oggi è che esiste una letteratura working class che racconta le storie di classe, le movenze, eccetera, eccetera. Però i lavoratori non leggono quei libri. E questo è il grande cruccio di noi che li scriviamo. Cioè il fatto che traiamo, diciamo, le nostre idee, i nostri stimoli alla scrittura dal corpo di classe. Ne siamo interni, quindi ci sentiamo legittimamente in grado di raccontare, ma poi non abbiamo nessun riscontro da parte del nostro mondo, che significa concretamente i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro. Non hanno l'attitudine, o si è persa, non l'hanno mai avuta, ad approcciare la forma narrativa. Questo è un grosso problema su cui secondo me è necessario che tutti quelli che si occupano di scrittura operaia si confrontino. lo dico così come dato biografico, nessun mio collega ha mai letto un mio libro. Sono tra l'altro anche in massima parte persone di madrelingua straniera che con la lettura di un libro fanno fatica. Quindi questo è un nodo importante, la classe riesce in qualche frammento di sé ad autoraccontarsi, ma questo racconto poi magari circola in ambienti che sono diversi da quelli a cui sarebbe destinato quel racconto. E questo è un nodo, è un limite di quella costruzione di un'antropologia operaia di cui Tronti scrive nella prefazione. Siamo sicuramente sul terreno delicatissimo dell'immaginario. Io scrivo su questa rivista, e qualcuno di voi conosce Carmilla Online, che fin dalla sua fondazione Valerio Evangelisti la etichettò, la denominò come per un immaginario di opposizione. Cioè, l'immaginario è quella roba molto complessa che sta nella nostra anima, nella nostra testa, nelle nostre aspettative, nei nostri sistemi valoriali, e che in qualche modo ci motiva, ci spinge anche verso l'azione politica. Non è sovrastruttura l'immaginario, soprattutto nella società in cui viviamo oggi, è il pane quotidiano di cui ci nutriamo. Pensiamo a quanto l'immaginario oggi di tutti noi è alimentato dai cicli, dai ritmi e dai contenuti dell'iperconnessione globale a cui 24 ore su 24 siamo sottoposti. L'immaginario è quella roba lì. Noi è su quel terreno che abbiamo perso tutte le nostre battaglie negli ultimi decenni, secondo me. Cioè, mentre il capitalismo è riuscito a costruire, io ricordo, ma molti di voi si ricordano ovviamente per questione anagrafica, l'avvento della televisione commerciale. Oggi ci fa un po' ridere, no? Sembra uno strumento antico quando vediamo Pio Silvio lì che spiega come sono belli i suoi programmi, ci scappa da ridere, no? Però negli anni Ottanta, quando ci fu l'avvento della televisione commerciale, inizio dell'avvento della televisione commerciale di massa, ci accorgemmo che era un dispositivo di creazione di un immaginario a noi nemico, a noi ostile, ma molto molto pervasivo, molto molto forte nei nostri mondi. Quello stile di vita, quel linguaggio che veicolavano le televisioni berlusconiane, che poi è diventato senso comune, è diventato omologazione di massa, che non solo per sua esclusiva responsabilità, ma dentro un processo storico complesso, ha cancellato le distinzioni anche linguistiche, estetiche, che c'erano fino agli anni 70 tra campagna e città, tra nord e sud. Adesso siamo tutti omologati dentro una marmellata linguistica comunicativa che rende tutto molto difficile, e rende, qua mi fermo, difficile soprattutto immaginare un mondo differente, immaginare rapporti di forza differenti, immaginare un sistema di valori differenti da questi cinici e sordidi in cui siamo cresciuti. E questa azione immaginativa, guardate che, ripeto, non è idealismo, è un terreno fondamentale su cui ricostruire qualsiasi opzione politica. Riguarda molto i giovani. Perché Gaza è stata così importante? Gaza è stata così importante perché è stata la chiave, o meglio, la lente attraverso cui una generazione giovane ha guardato per la prima volta le brutture del mondo. E quindi si è costruita, si sta costruendo in qualche modo un immaginario ribelle, un immaginario alternativo attraverso la visione di questo orrore quotidiano che è arrivato in diretta, piombato in diretta dentro i suoi telefonini, dentro i suoi social, dentro la sua vita. Noi oggi dobbiamo ragionare su quali sono i passaggi per costruire questo immaginario d'opposizione, immaginario di critica. E credo che il lavoro di Lorenzo, e soprattutto mi auguro lo sviluppo futuro di di questo lavoro darà un contributo importante da questo punto di vista, sempre che tutti noi lo sosteniamo. Grazie Giovanni per alcuni stimoli che ci hai dato, e magari sulla composizione di classe ci torniamo dopo. E anche il discorso della diffusione dei libri, della cultura, è un po' uno degli obiettivi che abbiamo anche qua a Casabettola col nostro progetto Sciame, che appunto cerca di diffondere la cultura anche come formazione e autoformazione interna di piccole case editrici che normalmente magari non si trovano nei circuiti ufficiali, ma che invece secondo noi sono importanti sia per le tematiche che portano avanti che anche altro. E volevo un attimo ritornare sul libro. E una cosa che mi ha colpito che di questo libro, che emerge che non c'è contraddizione fra lotta e scrittura, cioè la scrittura stessa può essere vista come una forma di lotta, anche magari cercando nuove forme espressive. Leggo giusto un passaggio. Le parole, comunque le scegli, ti sembrano sempre cose dei borghesi, ma le armi per le rivolte, i proletari le hanno sempre prese dagli arsenali dei padroni. E le parole sono armi che non vogliono uccidere né ferire, ma convincere e mobilitare. E che cosa vuol far emergere questo libro? Che contributo vuole dare alle mobilitazioni, appunto, Lorenzo? Marta ci sei? No, è andata. Ok. Nel mentre, come avete visto, io mando delle foto, se poi volete qualche commento o qualcosa sulle foto me lo chiedete. E prima era Alessio Durante, ora è Marco Merlini, e tanto per non fare citazioni, questa foto qua dietro è stata fatta a Sesto San Giovanni, quindi diciamo una delle capitali del movimento operaio italiano. E quindi insomma mando avanti, tra l'altro su Sesto San Giovanni un'altra cosa che è importante dire del libro, che c'è anche un contributo dei Gang, non so se li conoscete, un gruppo rock molto importante, che ci hanno tra virgolette regalato il pezzo in cui viene raccontata come nasce questa canzone molto bella che si chiama appunto Sesto San Giovanni, proprio perché pensavamo che oltre alle immagini, oltre ai racconti, fosse anche importante il rock che è sostanzialmente la musica operaia. Questa è una foto bella di Dronti. E ecco, allora, il contributo del libro secondo me l'ha capito benissimo Giovanni, nel senso che bisogna investire, scusate il termine così un po' di natura economica, sull'immaginario, cioè tutti questi anni quello che abbiamo perso secondo me è molto sul piano dell'immaginario, cioè sul quell'aspetto che è molto materiale. Noi pensiamo sempre all'immaginario come qualcosa che sia assolutamente etereo, invece quello che scopriamo proprio che quando sono nate le revisioni commerciali negli anni 80, poi sono nate non solo su suggestione anche diciamo da sinistra, no? Come evoluzione in qualche modo addirittura delle radio libere, ma questa non è una cosa che dico io, lo dice la sociologia più interessante e più importante nata in quel periodo. Quindi quella cosa per cui la destra, tra virgolette, prende sempre le cose che noi produciamo per poi piegarle al suo interesse. Quindi il legame poi tra diciamo, le radio libere, le televisioni libere, poi l'avvento di Berlusconi, la televisione commerciale e questa piega di una cosa che era nata come libertaria rispetto alla RAI, rispetto ai canoni che ci eravamo dati e che ci sembravano oppressivi, poi diventa una macchina ancora più oppressiva. E questo è un meccanismo in qualche modo che il capitale fa sempre, cioè pure all'inizio la precarietà era vista come una cosa quasi nostra, no? Di liberazione dal lavoro salariato, poi a forza di liberarci dal lavoro salariato ci siamo trovati senza lavoro, con la precarietà che non era più il rifiuto del lavoro, ma che era e che è tuttora l'unica forma in cui il capitale ci permette di lavorare, sfruttandoci di più, trattandoci molto meglio, molto peggio, con condizioni lavorative molto peggiori. Quindi l'immaginario su cui dal 1980 sostanzialmente la destra, il capitale, il sistema, chiamatelo come vi pare, ha investito è stato un lavoro molto grande sull'immaginario, cioè nel momento in cui Stefano racconta questa cosa, questa lotta contro i poveri, che ormai è una cosa legalizzata, cioè dare il DASPO a dei barboni, a della gente che non c'è a casa, dei senza tetto, sembra una cosa normale, invece è una cosa che dovremmo scendere in piazza come più per di Gaza, nel senso che ormai il povero che dorme per strada non è un poveraccio che non c'ha la casa, è un disgraziato che in qualche modo può essere un elemento di pericolo per noi che invece una casa ce l'abbiamo. Quindi in questi 50 anni di controrivoluzione conservatrice tutto quello che noi avevamo conquistato è diventato veramente nell'immaginario soprattutto un qualcosa di sbagliato, di erroneo. Tutto quello per cui non lottavamo in questo momento è diventato proprio il mondo al rovescio, si usa questa metafora perché a volte è realmente questo, cioè nel momento in cui uno vede dormire uno per strada non pensa oh poveraccio non c'ha la casa, pensa oddio ora questo si alza e mi rapisce o mi rapina. E quindi il fatto che un sindaco leghista faccia queste cose è normale, ma è ancora peggio perché poi ci sono anche sicuramente leghisti più o meno della nostra parte che agiscono nella stessa maniera, proprio perché in questi 50 anni l'immaginario è completamente è diventato una cosa completamente opposta a quello che noi abbiamo cercato faticosamente di costruire. Quindi l'ambizione grandissima del libro sarebbe in qualche modo, è chiaro Roberto che un libro, poi come diceva giusto quella frase di Tronti, non è che col libro puoi fare tanto, però se il libro diventa un'occasione in cui uno ne parla, in cui uno proietta delle foto, in cui riesce a intercettare, Giovanni giustamente dice nessun operaio ha mai letto i miei libri, però dovremmo cominciare a sperare che qualcuno legga quei libri. C'è tanto un discorso sui giovani che non leggono, poi nell'esperienza mia di insegnante ti rendi conto che poi anche comunque lo studente più distratto poi appunto purtroppo magari tramite Gaza riesce a capire che quello che succede a 4.000 km da qua in Palestina lo riguarda non solo perché chiaramente vede in televisione delle cose o sente alla radio o vede su Instagram che poi è il canale loro informativo delle scene raccapriccianti, ma perché, e quello è il passaggio successivo che dovremmo riuscire a fare, che cerchiamo faticosamente di fare, che quello che lui vede in qualche modo dietro c'è la stessa macchina che c'è qui, ok? Chiaro che lì è una macchina, quella israeliana, molto più violenta, molto più aggressiva rispetto a quelle che ci stanno qui, questo è evidente, non è che posso fare un parallelo, però quella stessa macchina che lì costringe la gente a scappare di casa, a cercare di sopravvivere a dei bombardamenti, è una macchina, che è quella del capitale, che qui in qualche modo ripropone, certo per fortuna ancora in scala molto minore come grado di violenza, dei sistemi di sfruttamento simili, nel senso appunto qui vedete le foto dei lavoratori di Glovo e c'ha ragione Marta, cioè il rider prima era visto in maniera molto oddio gli italiani, ora che invece per lo più fatto dagli immigrati, il fatto che i lavoratori di Glovo delle, insomma, di tutte quelle cose che hanno a che fare con delivery siano immigrati fa sì che in qualche modo la vediamo una cosa un po' più accettabile, in realtà è una cosa vergognosa, no? E è una cosa mostruosa che uno per la fatica di non voler uscire di casa si debba far portare estate, inverno, pioggia, neve, le cose a casa. Alluvione, sì, ricordate quella scena? E quindi questa è un po' una situazione di ribaltamento che dobbiamo fare rispetto a un immaginario che ci vede totalmente sconfitti. È chiaro che poi dall'immaginario uno deve passare anche alla materialità delle lotte, è chiaro che non c'è un sistema meccanico, cioè anche lì il marxismo operaista per fortuna ha distrutto non solo diciamo il marxismo dialettico, quello sovietico, ma anche un po' il materialismo storico, cioè non è che ci stanno dei meccanismi istantanei per cui uno investe sull'immaginario e contemporaneamente poi la politica o un livello di lotta riesce a innescarsi perché ha innescato un certo dispositivo immaginativo. Per fortuna le cose sono un po' più complicate, cioè può essere che mentre noi stiamo qui investendo sull'immaginario poi ci sia una lotta che in qualche modo precede o si mette in parallelo alla nostra lotta che stiamo facendo sull'immaginario. È chiaro che poi i conflitti vanno gestiti, i conflitti vanno un po' anche cercati, nel senso che non è detto che in questa società così apparentemente pacificata poi non si riesca a innescare, al di là dell'immaginario su cui investiamo noi, una qualche forma di conflitto. Quindi il lavoro che ci aspetta, il lavoro che fa questo libro, è cercare un po' di investire sull'immaginario, di cercare di smuovere qualcosa nell'immaginario, però dobbiamo anche essere pronti a ogni evenienza, cioè nel momento in cui, come è successo un mese fa, per 4-5 giorni di seguito l'Italia si è riempita le piazze intorno a Gaza, dobbiamo essere capaci in qualche modo di innestarci anche in questi processi reali di lotta e di vita. Prima di lasciare un attimo di nuovo il microfono a Giovanni, ovviamente questo vuole essere un dibattito aperto, e quindi invece di aspettare la fine per le domande, che magari o ve le bruciamo oppure siete stanchi, e ovviamente se qualcuno vuole intervenire per considerazioni, domande o contestazioni va benissimo, fatelo pure fin da subito, non riduciamoci alla fine. No, solo una cosa, brevissima. Se questa questo incontro, questa chiacchiera l'avessimo fatta 6 mesi fa, probabilmente avrebbe avuto un carattere più depressivo, più chiuso su noi stessi e sulle nostre sfide. Invece, appunto, come ricordava Lorenzo prima, poco più di un mese fa, l'Italia ha improvvisamente rivelato una parte di sé che noi non ignoravamo, non conoscevamo, cioè questa improvvisa generosità, disponibilità alla mobilitazione è stato qualcosa di incredibile. A Modena c'è stato il corteo più grande della storia della città e credo anche a Reggio. Migliaia di persone insospettabili hanno tranquillamente violato i decreti di sicurezza, che erano un po' la perla all'occhiello del governo Meloni, ma l'hanno fatto in piena consapevolezza, come già i metalmeccanici emiliani l'avevano fatto a giugno sulla tangenziale bolognese, nell'impotenza più totale del governo. Quindi questo significa che sotto la crosta della superficie c'è comunque la lava delle contraddizioni materiali che circola, si accumula e probabilmente aspetta solo la frattura giusta su quella crosta per poter venire fuori. Quindi tutte le cose che facciamo, anche quelle apparentemente piccole come quella che stiamo facendo qua stasera, sono altrettanti elementi di preparazione a gestire questi flussi, diciamo, di liberazione che potrebbero sorgere qua e là dentro questa cartografia sociale che ci sembra inafferrabile, ci sembra così complessa, non riusciamo a leggerla, però i punti di rottura si verificano, e quando si verificano è bene che ci siano posti come questi, libri come questi, insomma questo reticolo di pensiero critico che secondo me è indispensabile a fare in modo che le lotte non defluiscano, ed è è quello che è all'ordine del giorno adesso, credo anche a Reggio Emilia, oltre che a Modena e in tutte le altre città d'Italia, cioè quali invasi costruiamo per fare in modo che questa voglia di partecipazione, di protagonismo che migliaia e migliaia di persone hanno manifestato in questi ultimi mesi trovi comunque un punto di approdo, un punto di riferimento. Cioè è una riflessione che, su cui nessuno ha delle risposte ovviamente, ma dobbiamo porla all'ordine del giorno. Cioè, abbiamo oggi visto che la partecipazione di massa è possibile. Come facciamo a evitare che questa partecipazione di massa dilegui, rifluisca, ritorni, diciamo, appunto sotto la crosta secca della normalizzazione? Qualcosa che dobbiamo interrogarci su questo, è molto importante soprattutto per l'affacciarsi sulla scena di queste nuove generazioni. Abbiamo un paio di domande alla Repubblica. Posso? Allora, no, io mi riallaccio Mi riallaccio a questa ultima riflessione e non voglio essere provocatorio, però c'è una considerazione che mi viene, è che se noi guardiamo agli ultimi decenni addirittura, cioè comunque agli ultimi, i movimenti di massa, appunto, come quello che è successo, che abbiamo avuto recentemente, non sono legati alla tematica del lavoro. Okay? Cioè partono da altre situazioni, che l'ambiente, i cambiamenti climatici, insomma, o addirittura situazioni ancora più immediatamente politiche, no? Come, insomma, come c'è stato, insomma, nei paesi arabi nel 2011. E c'è quello che volevo porre, no? Volevo chiedere così. Cioè, nel senso, noi non abbiamo forse un nostro limite che viene dalla nostra storia grandiosa, meravigliosa, importante, che secondo me ha lasciato residui che ci hanno fino ad ora un pochettino salvati, cioè nel senso che in altre situazioni probabilmente il degrado, pensiamo ai paesi dell'est Europa, è stato molto più violento e repentino. Però appunto, cioè, il fatto di considerare ancora i lavoratori in quanto lavoratori non è un limite? Cioè, non dovremmo forse oggi considerare i lavoratori in quanto cittadini, no? E coinvolti in processi molto più ampi, che non sia quello legato al mondo del lavoro, e che quindi devono essere in una qualche maniera lavoratori a uscire dalle fabbriche, non pensare che, no, che dentro alle fabbriche, dentro ai luoghi di lavoro ci siano... Io, cioè, nel senso che la ricomposizione di classe, chiamiamola così, ecco, avviene attorno alle fabbriche o avviene nella società? Cioè, questa è una questione, secondo me, complicatissima, che però appunto va nella direzione di dire, cioè, anche per dire, anche le forze sindacali, ok? Cioè, abbiamo visto gli scioperi quando hanno funzionato. Hanno funzionato quando si è fatto sciopero insieme. Cioè, questa capacità, insomma, questa anche accettazione da parte delle forze sindacali, penso ovviamente soprattutto alla CGIL, ma anche ai sindacati autonomi, di, come dire, di lavorare per, non di lavorare su di loro, no? Ma di mettersi a disposizione di una ricomposizione delle lotte che sia, cioè, non so come dire, che non abbia un'identità immediata, ma qualcosa da costruire, predeterminata, diciamo. Cioè, se si poniamo appunto questo tema di una ricomposizione di classe, oggi la possiamo vedere attorno alle figure, diciamo così, del lavoro, o dobbiamo vedere invece i lavoratori in quanto compiutamente cittadini, che poi sarebbe il compimento di quello che c'è stato appunto negli anni 60 e 70, quando i lavoratori hanno conquistato diritti di cittadinanza. A questo punto però allora non siamo più lavoratori che rivendicano diritti dentro al luogo di lavoro, ma dobbiamo agire pienamente da cittadini. Salve, no, io mi volevo agganciare a quello che diceva Ale in merito appunto del fatto che più che andare a pensare lavoratore per lavoratore, fare un passo più ampio, andare nella società, perché a pensarci, cioè, per quello che riguarda Gaza nel particolare adesso, che ha avuto un impatto molto forte in breve tempo, ma anche poi anche dal punto di vista climatico, sono tutti argomenti molto di impatto e personali, comunque uno riguardo punto di vista umanitario ed etico, e l'altro proprio anche a livello, cioè, fisico in un certo senso. E il fatto che secondo me non è che non può funzionare andare essere lavoratore dentro lavoratore, andare da un proprio collega e dirgli dobbiamo scioperare, no? E non può funzionare, ma perché? Perché innanzitutto negli anni 70, quando c'erano gli altri scioperi, c'era una classe di lavoratori che era già appunto adulto. Adesso più che altro la classe di lavoratori predominante è quelli che sono nati appunto negli anni 60 e 70 e che hanno vissuto uno dei picchi capitalistici degli anni 80, che belli gli anni 80, che c'era di tutto e di più, e poi soprattutto anche la mia generazione, quella prima, sono nate e cresciute in un contesto capitalista ben rodato, in cui hanno creato questo tipo di società che si autoaggiusta e si trova il problema da solo, in un certo senso, non so bene come spiegarlo, però il punto è che, ad esempio, dal punto di vista della disoccupazione, ci vengono a dire che la disoccupazione sta diminuendo e si va in uno stato di più, che bisogna, anche lo Stato ti dice che si mira ad avere i più occupati possibili, però in realtà se si va a studiare la macroeconomia, il sistema, proprio quello a cui mira anche lo Stato, ci deve essere in realtà sempre un numero naturale di disoccupati per tenere un esercito di riserva alle aziende da cui attingere, per cui il lavoratore che è dentro non ti fa lo sciopero, perché dice se io sciopero e chiedo qualcosa in più, mi licenziano perché c'è qualcun altro che appunto sono i disoccupati, che sono in fila, no? C'è questo meccanismo. Quindi più che non credo che si possa fare direttamente questo passo diretto di dire scioperiamo, perché non c'è nella maggior parte, e anche per questo secondo me penso che sia giusto far girare libri e leggere più libri possibili per formare la persona più vicina a sé, che formerà quella a sua volta, eccetera. Ma soprattutto anche verso la mia generazione, che è quella a cui più peserà ancora di più tutta questa situazione, da cui non solo non riuscirà ad uscire ma probabilmente peggiorerà ulteriormente, credo che come per Gaza si sono informate, cioè le persone sono scese in piazza perché si sono formate. Io in primis non sapevo niente della situazione della Palestina e la storia di Israele, e gran parte delle persone che sono scese in piazza, facevano i post sui social, sapevano la storia di Israele, perché per riuscire a fare un movimento così grosso avevano per forza bisogno di informazioni. Quindi penso che bisogna fare la stessa cosa, come diceva Ale, che andare più nella società e fare incontri organizzati anche di libri, oppure proprio anche di formazione politica tra le persone e i ragazzi, e dirgli guardate, la situazione socio-economica e di lavoro in cui siamo immersi funziona così. Che cos'è ad esempio l'inflazione? Che cos'è quella curva di Phillips che ti dicono che in realtà ci deve essere sempre un certo numero di disoccupati? Che cos'è il plus valore, no? Se tu gli vai a spiegare il gioco e come funziona la società in cui sono immersi, a parte mettersi le mani in faccia, tipo me qualche giorno fa, che ho letto un libro a riguardo e mi sono messa le mani in faccia, capiscono in che cosa sono immersi, hanno una consapevolezza e o si infervorano e vanno da quello più vicino, che è il loro collega di lavoro, storia veramente successa la mia, e quindi vado vicino e ancora di più un po' spingo, però con consapevolezza e informazione, non solo ti dico dobbiamo scioperare, però ti dico guarda che questa cosa funziona così per questo motivo, e da quel momento si crea effettivamente una catena, secondo me, da cui poi si può pensare a fare lo sciopero o le manifestazioni in grande, per cui la gente scende perché è consapevole di quello che sta facendo, perché adesso come si vota la persona singola più che il partito, si agisce proprio se c'è consapevolezza, se no la fanno fare agli altri, perché è così un po' in tutto, fai tu che lo sai. Io in un luogo molto lavoro per una banca, tra l'altro, però sì, però sarei un'astronoma, ma in Italia non funziona molto bene il mondo degli insegnamenti. Sì, esatto, 50 euro ti leggo la mano, ti dico quello che vuoi. Quindi niente, era per agganciarmi, è sparito di nuovo. Era sempre là. Ah, ma è tutto da 6 che poi ho allora, sì, allora, come difficili questioni, nel senso che la composizione di classe e come politicizzare è un tema enorme. Io credo che è stata detta una parola dall'astronoma Karin. Da Karin molto, molto utile e fondamentale, che è formazione. La formazione allude un po' anche all'immaginario, nel senso che oggi più che mai abbiamo bisogno di formazione. Io vengo dalla scuola, il mondo della scuola, l'ultima cosa che fa al giorno d'oggi è formazione, perché siamo assediati, c'è colonialismo anche lì, nel senso che noi ogni ora che facciamo è strappata al resto della cosa che non riguarda la formazione. Abbiamo mille cose, l'orientamento, l'alternanza scuola-lavoro, che per la terza volta ha cambiato nome, ma è sempre la stessa cosa, sempre più pervasiva. Abbiamo mille cose che ci distraggono la formazione, quindi le scuole ormai, soprattutto il senso critico, non lo danno quasi più, quindi c'è una prima difficoltà nel luogo precipuo della formazione, che è la scuola, e a maggior ragione della società la formazione non avviene più, nel senso che uno dei temi forti di questo libro è il termine memoria, e la memoria quello è, cioè la memoria è la trasmissione fra una generazione, come diceva Karin, magari degli anni 80 e un'altra generazione, quella che si affaccia agli anni 90, un'altra ancora una si affaccia agli anni 0, e ogni volta si ha la sensazione di ricominciare, nel senso che in questi giorni di piazze della Palestina la cosa che più mi ha colpito è che quando io cominciavo a scendere in piazza per la Palestina alla fine degli anni 80 gridavamo Palestina rossa, Palestina libera, ora si grida solo Palestina libera, quindi abbiamo perso il rosso della Palestina, ed è un guaio, perché appunto poi veniamo accusati di essere amici di Hamas, perché anche lì non c'è più la possibilità o l'orizzonte di una Palestina che oltre a libera sia rossa, magari è troppo, anche semplicemente rosea, non so come dirvi, rosé. Laica, ecco, diciamo almeno laica, che di tutto il rosso è l'aspetto pure. Quindi è chiaro che c'è un arretramento negli ultimi 50 anni nelle nostre rivendicazioni, nel senso che quando si parla di operaismo, quando si parla di degli anni tra virgolette d'oro, mi viene in mente, scusate, visto che abbiamo il libro, vi faccio vedere queste immagini che hanno fatto che fanno una certa impressione. E eccolo qua, abbiamo chiamato una parte uno dei racconti, si chiama funerale operaio, perché sono le foto di un funerale operaio, diciamo, che ci ha dato Rita Di Leo, che è stata un'operaista storica. Ma la cosa che ci ha colpito di questo funerale, scusate, speravo di farvelo vedere, sono tipiche immagini del 1980 a Torino, e ecco, lo potete vedere. La cosa che più ci ha colpito di questa cosa è che questo funerale operaio è avvenuto pochi giorni prima della fantomatica marcia dei 40.000. E questo perché? Perché questi 20 anni, Giuseppe Filippetta, che è un altro autore di questo libro, ha chiamato in qualche modo il ventennio costituzionale, cioè quello che nasce nel 1960 con un po' Piazza Statuto, un po' le prime occupazioni delle fabbriche a Milano, e che dal 1960 fino probabilmente al 1980, oppure qualcuno parla del 1982 a proposito di immaginario, perché la vittoria reale dell'Italia ai mondiali ha costruito da lì in avanti tutto un immaginario, diciamo, anti ventennio precedente. In questi 20 anni, dal 60 all'80, è stato l'unico periodo di tutta la storia repubblicana italiana in cui la Costituzione sostanzialmente è stata quasi applicata, tant'è vero che tutte sbloccata. Sbloccata. Tant'è vero che tutte le forme di welfare che persistono sono nate in quel ventennio, dalla scuola di cui sopra, alla scuola media, a tutto quello che noi pensiamo, al Servizio Sanitario Nazionale, anche allo Stato, voglio dire, le regioni, le province sono nate in quel periodo, quindi tutto è nato in quel ventennio e da lì in poi, appunto dal 1980 in poi, quindi da questo funerale operaio è stato un lungo declino, quindi è chiaro che come persone, che magari appunto io nell'80 avevo 7 anni, però come persone poi dobbiamo avere la capacità anche di trasmettere a chi ci ha preceduto la memoria di chi c'è stato davanti. Cioè io credo che il lavoro e l'investimento della formazione, quindi del formare le persone, sia nel raccontare banalmente le storie. E è un lavoro appunto che ho detto banale, ma non è per niente banale, perché è complicatissimo in una società come questa in cui tutto è immagine. Per quello ci abbiamo molto investito sull'immagine, perché nell'epoca di TikTok, di Instagram, insomma facciamo un po' di cose volendo anche banali, però l'immagine poi continua ad avere una sua rilevanza, una sua pregnanza, anzi probabilmente molto di più. Sicuramente la gente è scesa in piazza nel momento in cui ha visto quelle foto tremende dei bambini di Gaza violentati, uccisi, morti, feriti, e quindi forse appunto anche ripartendo da queste immagini, da immagini della classe operaia, da immagini della vedista, no? Anche semplici volti di lavoratori, uno può cominciare a raccontare, può cominciare a raccontare l'antropologia di queste persone, di questi lavoratori. Appunto, questo è Maurizio Maggiani, anche delle foto semplicemente di queste, che sono delle cooperative del Ravennate, uno può cominciare in qualche modo a raccontare le storie. È chiaro che è una cosa difficile, è chiaro che è un lavoro molto impegnativo, ma io penso che la continuità delle lotte, se vogliamo in qualche modo costruirla, se vogliamo in qualche modo cercare di raccontare quello che è stato, e anche soprattutto il fatto che a un certo punto nella storia magicamente si riesce anche a vincere, pure è vero che magari è una vittoria parziale, che insomma la Costituzione può essere anche migliorata, però diciamo che quei 20 anni sono una storia abbastanza gloriosa che ci portiamo appresso, quindi raccontare le storie significa anche dire al ragazzetto che oggi ha 14 anni, 15 anni, guarda che se uno si organizza, guarda che se uno fa un po' di formazione riesce a vincere. È chiaro che pure lì bisogna inventarsi nuove forme, perché al di là di tutto non credo che ci sarà mai un partito o un sindacato che in qualche modo ci soddisfi al 100%, ma probabilmente anche sono delle forme del passato, nel senso che anche quando ci siamo posti il problema dopo la morte di Mario, come portare avanti il suo lavoro, magari 20 anni fa uno faceva una fondazione, non lo so, faceva un istituto di ricerca intitolato a Mario Tronti, ce lo siamo anche posti il problema, però è chiaro che delle forme vanno inventate, delle forme nuove, perché è inutile riproporre appunto un partito oggi, che significa? Non saprei proprio da che parte cominciare se volessimo fare un partito o un sindacato. È chiaro che c'è una materialità delle lotte che magari appunto ci fa formare un sindacato, ci fa stare in un sindacato, ci fa stare in un partito, però io credo che è una lotta talmente lunga, talmente complessa, talmente impegnativa, che anche le forme vanno un po' riviste, che uno si deve inventare altre cose. Guardo Roberto, con cui ci affrontiamo sempre il tema anche diciamo di come nuove forme di lavoro, come organizzare nuove forme di lavoro in una società in cui il lavoro è sempre più frammentato, è sempre più sottoposto alle multinazionali. È chiaro che uno deve avere una capacità creativa molto, molto forte. Cioè, noi in questo momento stiamo lavorando in questo quartiere che si chiama Esquilino a Roma, al lato di Termini, e ci stanno mille questioni che quotidianamente ci vengono poste e sollecitate, e cercare nuove forme è sempre importante. E questo che significa? Significa che bisogna fare un grosso lavoro di formazione nei confronti delle persone, non solo dei fantomatici giovani, ma anche dei nostri coetanei, perché comunque l'analfabetismo sotto molte forme è in agguato, appunto nei faccio così perché c'ho il cellulare, nei social media, nella gente che dice ah vabbè ma io sto su Facebook, ho capito, non è che basta stare su Facebook per fare le cose, e né uno può anche dall'altra parte negare che non esistano i social media, cioè sarebbe cretino dire faccio le cose ma poi non le comunico, cioè siamo di fronte a una sconfitta storica della sinistra, chiamatela come volete, preferisco il termine movimento operaio, e che nasce probabilmente in Italia nel 1980, anche lì è chiaro che il compagno di prima faceva delle considerazioni contro la geopolitica, però è chiaro che nel momento in cui è finita l'Unione Sovietica un certo problema ce l'abbiamo avuto, perché è chiaro che si è riorganizzato un mondo intorno agli Stati Uniti, che poi questo mondo in questo momento soffra, che gli Stati Uniti non siano più la potenza egemone, che si va verso un mondo multipolare, anche la dimensione geopolitica purtroppo in qualche modo rientra nelle nostre vite, quindi è una situazione complicata e ci dobbiamo armare di pazienza, ecco. Le foto bellissime di quel funerale sono le foto di una comunità, operaia, cioè quel defunto non era il segretario della CGIL, è un funerale operaio, però quell'operaio lì stava dentro una rete di relazioni che aveva alimentato probabilmente per tutta la sua vita con la sua militanza dal basso in fabbrica eccetera eccetera, e la fine di quel percorso era una comunità che si stringeva intorno a quella persona. Oggi moriamo da soli, ci manca quella dimensione lì, in fabbrica e fuori dalla fabbrica. Questa è una prima riflessione antropologica su quello che mi evoca mi evocano quelle fotografie, sulle cose che diceva prima la nostra astronoma bancaria, magari bancaria. Allora io credo che il libro non abbia nessuna nostalgia o pretesa o fabbrichista, cioè non è quello lo spirito del libro, neanche io che lavoro in fabbrica sono fabbrichista, neanche lui che è uno studioso dell'operaismo è fabbrichista, cioè non abbiamo l'idea del totem, del feticcio operaio, del feticcio io credo che ci venga in soccorso spesso oggi la categoria di operaio sociale che negli anni 70 fu elaborata proprio perché si stava già dentro una grande trasformazione post-industriale, e quella era una categoria che serviva, come dire, a dare una chiave di lettura di quei processi complessi. L'operaio sociale non era una figura identificabile in una prestazione lavorativa, ma era una tendenza che si stava sviluppando dentro la composizione di classe. Quindi non c'è nessuna nostalgia fabbrichista. C'è sicuramente un discorso di materialità, di osso dell'economia. Quando c'è stata la grande crisi fra il 2008 e il 2010, cosa ci ripetevano in continuazione i politici, gli editorialisti, gli economisti? Noi non abbiamo fatto la fine della Grecia perché in Italia c'è la manifattura. Questa cosa ce la siamo sentita ripetere mille volte, ed è anche oggettivo, nel senso che resiste ancora una dorsale produttiva, diciamo, dentro questo paese che è stato il paracadute nel momento in cui la crisi, diciamo, generale del sistema si è acuita. Dentro quella oggettiva contraddizione ci dobbiamo stare, secondo me, appunto, senza miti, senza feticci, senza totem, ma ci dobbiamo stare. È molto importante perché è vero che il lavoratore è ormai soprattutto un cittadino come gli altri, che non si identifica più sentimentalmente con la sua condizione operaia, eccetera, eccetera, eccetera. Però la considerazione banale che faccio da persona, come dire, semplice, quali sono, è: se io non riesco ad organizzare i miei colleghi di lavoro, che sono una piccola comunità operaia, che fanno più o meno lo stesso lavoro, sotto lo stesso capannone, vestiti allo stesso modo, con lo stesso nemico, come faccio ad affrontare la complessità delle relazioni, della frammentazione sociale che c'è fuori dalla fabbrica? Cioè, se non sono in grado neanche di organizzare quel piccolo reparto, diciamo, del nostro esercito di classe, che avrebbe le condizioni più facili per capire il senso della necessità storica dell'organizzazione, come faccio poi ad affrontare il mondo che c'è fuori, così, partendo da zero? Quindi io credo che non bisogna coltivare i miti, appunto, di antiche centralità che non esistono più, però non dobbiamo fare neanche l'errore che abbiamo fatto negli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta, quando forse Lorenzo è giovane, non si ricorda, ma ci fu una fuga dalla fabbrica delle avanguardie rivoluzionarie, un po' perché furono buttate fuori, un po' perché spesso accettavano di uscire per usare le buone uscite o i soldi della cassa integrazione per costruire nuove ipotesi di vita, che era legittimo, però in quel modo là si produsse una desertificazione delle presenze critiche in fabbrica, che fu molto molto grave, che poi abbiamo pagato per molti lunghi anni. Cerchiamo, secondo me, di tenere un orizzonte largo, inclusivo, in cui appunto non coltiviamo nostalgie e allo stesso tempo però non coltiviamo neanche abbandoni o distrazioni rispetto a un terreno che è fondamentale, che è quello della produzione manifatturiera, della produzione industriale in questo paese. Sono altre domande? C'era? No, c'era Dario. No, sono Lorenzo. Lorenzo, Dario. Allora, dunque, è molto interessante mentre parlate guardare le immagini. Le immagini ovviamente sono un'iconografia che riporta gli anni, eccetera, eccetera. Il problema grosso, secondo me, è, come avete anche detto, che la gente adesso, soprattutto gli operai, secondo me non leggono molto. Adesso anche gli studenti universitari si informano sul telefonino, cioè le informazioni arrivano subito. Quindi anche i professori addirittura dicono sì, telefonino, sai le cose prima. Cioè. E quindi il concetto cos'è? È tutto fondato sull'immagine, e purtroppo la classe operaia ha un'immagine del perdente. Quindi è un'immagine che non è per niente affascinante. È facile scandalizzarsi per Gaza, è facile scandalizzarsi per il cambiamento climatico, soprattutto attraverso i giovani, perché gli anziani non ne frega niente. Però è tutto passato attraverso l'immagine. Nessuno si è messo a leggere, pochi avranno letto le informazioni su Gaza, eccetera, hanno scoperto cos'è la Palestina e cos'è Israele. Erano le immagini che erano potenti, arrivavano subito, anche perché adesso tutti appunto hanno il telefonino, quindi le immagini arrivano ovunque. È questo che suscita emotività, quindi stiamo muovendoci sull'emotività, non sul ragionamento, che è una cosa ben più complessa. Per quanto riguarda il ragionamento, invece, c'è il deserto, nel senso che la gente non riesce a collegare le lotte, che sono più o meno tutte uguali, e c'è questo meccanismo anche sul lavoro, non mica solo in fabbrica, anche a scuola, per esempio, dove gli insegnanti, tutti i lavoratori sono messi uno contro l'altro. Cioè, tu praticamente puoi andare avanti se ti distingui dagli altri, se sei in competizione. La competizione è tutto. E la famosa lotta di classe, come si dice, l'hanno vinta la borghesia e gli imprenditori, che loro sono invece, si presentano come vincenti. Il capitalismo del resto promette i miracoli, cioè diventare ricchi all'improvviso con cosmai con le schedine, no? Giocare col gratta e vinci. Questa situazione qua è molto complicata, bisognerebbe trovare una narrazione, come si suol dire, di immagini che invece come dire, riabilita gli esseri umani e soprattutto i legami umani. perché io sono andata al cimitero, ho fatto una foto alla tomba della famiglia della mia amica, gliel'ho mandato, dico, guarda che bei fiori, è morta mia cugina, cioè adesso siamo tutti connessi ma non siamo più in contatto, quindi è una situazione allucinante. L'analfabetismo funzionale è drammatico e comunque la gente non ha tempo di leggere, quindi la narrazione dovrebbe avvenire, purtroppo, come state facendo in questo momento, soprattutto attraverso delle immagini, attraverso un, cioè bisogna proprio lavorare su un immaginario, su qualcosa che ancora non siamo riusciti a trovare, penso. Grazie. Sentiamo Dario. In realtà la domanda di Lorenzo era molto più interessante di quello che volevo dire. Allora, l'attenzione sull'immaginario credo che sia centrale, però poi il problema che avete mostrato, cioè la frammentazione, cioè mi fa pensare che se da un lato l'esempio degli anni Ottanta, Berlusconi che propone con le TV commerciali un modello d'Italia, tutti si riconoscono, insomma è qualcosa che c'è stato, noi oggi ci troviamo di fronte a una frammentazione che produce più immaginari, perché allora mi chiedo come si fanno a unificare questi immaginari se la classe è frammentata. E al tempo stesso però l'immaginario che unifica oggi c'è, cioè non c'è più Berlusconi ma c'è la questione, credo centrale, dell'immaginario che in qualche modo è quello del nazionalismo che sta tornando, cioè io mi riconosco nell'idea di nazione, da destra ma anche da sinistra, in realtà c'è anche un modello, diciamo, di nazionalismo civico, no? Che la sinistra stesso ha portato avanti. Quindi rispetto a quest'idea di immaginario che unifica oggi, cioè il nazionalismo, come si può reagire se c'è la frammentazione? Cioè cosa possiamo fare per arginare questa immagine complessiva di nazione che riesce, diciamo, a penetrare e a unificare, e cosa possiamo proporre di unitario? Questo mi chiedo. Allora, nel mentre, vabbè, continuo a spiegare un po' le immagini, così intanto penso a delle domande molto complicate. Questa è una torre, si chiama Coin Tower, che sta a San Francisco. E questo è fa parte di questo saggio scritto da Pier Vittorio Aurelli, che è un importante professore universitario di architettura che si è occupato molto di politica urbanistica sostanzialmente, e questa è un Coy Tower che sta a San Francisco, che è stata affrescata da pittori che fanno riferimento al muralismo messicano, quindi a Diego Rivera, ed è lui ha chiamato il saggio la Cappella Sistina della classe operaia, quindi è tutto io non ci sono stato, è tutta una torre reale quasi medievaleggiante, però chiaramente degli anni 30, fatta a San Francisco, in cui ci stanno appunto questi affreschi in cui è riproposto il conflitto tra l'operaio e il capitalista all'interno appunto della società. Quindi questa è la classica, ci sta una fabbrica, c'è una forse proprio una cosa tessile a cui faceva riferimento Marta, ci potrebbe essere qui, insomma, una cosa riguardo delle stoffe, insomma, scene lavorative, ecco, questa è un po' l'idea di questa Coy Tower. Allora, riguardo alla prima domanda, è chiaro che è proprio un po' il lavoro che stiamo facendo, cioè cercare di, in qualche modo per quanto possibile, mettere un cuneo sull'immaginario. E in questo saggio c'è anche, scusate, in questo libro c'è anche un saggio di Alessandro Leogrande su Taranto, e per esempio una cosa che ci ha fatto piacere è che mentre usciva l'Atlante usciva anche quel film che si chiama Palazzina Laff, non so se l'avete visto, appunto, che parla di questo reparto di punitivo di Taranto in cui venivano messi gli operai un po' più scavezzacollo, ecco. E quindi è chiaro che è un lavoro complicatissimo, appunto, a maggior ragione poi con una cosa del cinema, giustamente Giovanni si lamenta dell'industria editoriale, ma l'industria cinematografica è ancora più sorda a queste cose. Palazzina Laff è stata una specie di miracolo che in qualche modo il cinema si occupasse di lavoro in quei termini, che facesse vedere quelle cose. Il cinema italiano ormai racconta delle storie di una banalità sconcertante, quindi per chiunque di noi cerchi in qualche modo di lavorare nel fantomatica industria culturale, è chiaro che è difficilissimo incidere, uno ci prova, è chiaro che è un lavoro complicatissimo. Riguardo al nazionalismo, è quello pure è un tema veramente mostruoso, chiaramente anche lì l'operaio e l'internazionalismo andavano di pari passo, io credo che una categoria novecentesca assolutamente da ripristinare in qualche modo è l'internazionalismo, e questa cosa di Gaza, appunto, pure lì un minimo di ottimismo rispetto a quello che diceva Giovanni ce l'ho pure io, nel senso che è chiaro che nel momento in cui uno capisce che c'è un meccanismo di sopraffazione, appunto più o meno coloniale, come può essere quella di Israele nei confronti di Palestina, e un ragazzetto o una ragazzetta del giorno d'oggi veda e capisca che quello che avviene lì può essere una cosa che poi si riproduca qui, è fondamentale. Riguardo al nazionalismo, io credo che un po' in generale, diciamo, un'altra forma di ottimismo che c'ho rispetto all'attuale governo, all'attuale diciamo predominanza della destra, e che sia anche molto di fuffa, cioè anche lì c'è un meccanismo diciamo di immaginario che cerca in tutti i modi di far sì che questo conflitto, che c'è il conflitto all'interno della società, c'è sempre, per fortuna, anzi dobbiamo appunto animare quel conflitto. C'era quella frase prima di Vittorio che diceva un po' questa cosa, non so se l'avete letta, non credo, ve la ripropongo, dei tanti e dei molti, cioè c'è questo principio di maggioranza che in qualche modo ci deve in qualche modo far stare, insomma, sempre, no? Signori, non scherzate col fuoco, perché chi è potente, chi è ricco in questa società divisa in classi ha sempre un grande potere, si può permettere il sadismo di maltrattare i suoi dipendenti, i suoi cosiddetti inferiori, ma si ricorda però che quando l'essere umano è offeso ed è offeso in larga misura, allora nel sottostrato della società, un po' la metafora vulcanica di Giovanni che tradisce la sua origine napoletana, però c'è questo sottostrato della società in cui noi dobbiamo cercare di animare e attivare il conflitto. E il nazionalismo è quello, secondo me c'è appunto questa destra al potere, come ricordava prima Marta, che fa grande professione di patriottismo, però poi ci rendiamo conto che la siderurgia è venduta, che vende comunque e che esporta e che svende tutta l'italianità, per cui da una parte viene rivendicata, ma dall'altra appunto tutta l'industria italiana viene via via svenduta. In questo libro c'è anche una specie di avete visto prima l'immagine al GKN, un articolo carino di Alberto Brunetti scritto in stile Balestrini in favore della GKN. Quella è un'insorgenza operaia che in qualche modo è riuscita a intercettare anche molte persone che magari non sapevano neanche cosa fosse la GKN, intorno a uno dei punti cruciali del nazionalismo, perché appunto da una parte si dice l'industria italiana, dall'altra un'industria italiana che funzionava è stata svenduta, e tuttora, insomma, la situazione della GKN è grave e non si riesce a risolvere, perché da una parte c'è un capitalismo che comunque tende a spostare la produzione laddove il costo del lavoro è più basso, dall'altra c'è una politica che in qualche modo invece inneggia al nazionalismo, che proprio non riesce a dare come si può dire, sostanza a questo nazionalismo. Quindi anche lì dovremmo in qualche modo cercare di dire che appunto il nazionalismo è una risposta sbagliata in un mondo globale, che appunto l'italianità va difesa, boh in che termini, boh non lo saprei. Quindi l'internazionalismo, che era una cosa dei proletari, va raccontata, è chiaro che va raccontata in termini di come poteva essere fatto nel 1970-80 il lavoro e come funzionava l'internazionalismo, pure lì senza cadere troppo nella nostalgia, però tutte quelle persone che mi hanno raccontato la loro esperienza all'interno del Partito Comunista, la riunione che avveniva nella sezione partiva dal sistema generale e poi si finiva a parlare della fantomatica Fontanella o l'aiuola di cui tutti abbiamo paura, che un bel libro era uscito. E invece ora è sempre il contrario, cioè se facciamo una riunione qua ci cominciamo a lamentare della Fontanella che qua fuori non funziona, dell'aiuola che magari è sporca o appunto peggio ci stanno i barboni, e poi forse si arriva a parlare di qualcosa che riguardi una dimensione un po' più larga, eppure lì probabilmente bisogna essere capaci di parlare di Gaza e poi finire a parlare dei problemi che abbiamo nel condominio o nella strada qua davanti. È lavoro da fare. Abbiamo citato, non ricordo chi, la GKN. Guarda, la GKN è un bel esempio per come ha tenuto insieme i due corni di questa dialettica, perché la GKN è uscita dalla classica vertenzialità tradizionale, chiusa in se stessa, ha investito la società, ha fatto anche un lavoro sull'immagine con cui si rappresentava al resto, al resto del tessuto sociale. GKN ha fatto un grande lavoro anche sull'immaginario. Però attenzione, perché la GKN ha una storia di organizzazione operaia molto rigida e molto ortodossa che arriva da 15 anni prima. Cioè non si è organizzata dopo la crisi, come succede purtroppo in molte realtà aziendali, no? Tante fabbriche hanno vivacchiato, poi quando è arrivato il momento della chiusura si sono mossi, magari anche con radicalismo, così con velleitarismo, però ormai i giochi erano fatti, non facevi più in tempo a recuperare. Loro hanno invece una storia di organizzazione molto originale, credo siano da etichettare come l'azienda più sindacalmente avanzata da questo punto di vista. Si erano inventati una forma di organizzazione loro, il collettivo di fabbrica, che non era l'RSU, era qualcosa che riusciva a tenere insieme quella famosa frammentazione dentro il perimetro industriale di cui abbiamo parlato prima. Quindi hanno fatto l'operazione su tutti e due i versanti, quello generale sul modo in cui si rappresentano e sulla proposta che fanno, e quello più tradizionale, che invece è un lavoro di lunga lena che viene da lontano. Come si fa a ricostruire l'immaginario? Nessuno di noi lo sa, però secondo me dobbiamo acquisire le lezioni di quelli che hanno lasciato una qualche eredità. Io torno a citare Valerio Evangelisti, cioè non ci sono terreni su cui dobbiamo esimerci da combattere la battaglia culturale, la battaglia dell'immaginario. Tutti i terreni sono utili e necessari, tutti. E Valerio Evangelisti ne è un esempio, anche se non c'è più, perché lui, sapete, prese in mano questa cosa che era il genere fantasy, all'epoca in cui cominciò a scrivere lui di fantasy a sinistra, nessuno scriveva di quella roba lì, era anzi considerato un tema di appannaggio della destra. Lui invece lo prese quel genere lì, lo esasperò addirittura, lo usò in modo addirittura paradossale, ed era capace di farti tre volumi su Nostradamus, per dire, che dici, ma tre volumi su Nostradamus a che serve? Però allo stesso tempo lui era quello che ha tirato fuori quel bellissimo ciclo sul socialismo italiano, quello sul sindacalismo americano. Esatto. Cioè riusciva a tenere tutte e due i livelli, diciamo, della battaglia culturale attivi tutte e due, ed ha fornito credo un grosso servizio sul piano culturale a tutti noi, al movimento, allo sforzo di ricostruire appunto un immaginario alternativo, critico, di classe. Quindi prendiamo gli esempi buoni che ci sono, non lasciamo nessuna battaglia, non lasciamo nessun terreno libero, perché l'oro, il capitalismo, il sistema, come lo vogliamo chiamare, hanno questa capacità pervasiva. Intorno a un'idea forza, che è quella che da Berlusconi a Trump continua a riprodursi, cioè arricchitevi, il modello vincente è il nostro, quelli vincenti siamo noi perché siamo riusciti a guadagnare dei soldi indipendentemente dal modo in cui li abbiamo fatti, hanno la capacità di allargarsi da tutte le parti, di occupare tutti gli spazi, hanno la possibilità di ingaggiare ovviamente degli agenti di promozione culturale che sono ben pagati per fare questo ruolo. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, pur non essendo ben pagati come Lorenzo, che no, non lo paga nessuno, però dobbiamo continuare a fare questo lavoro e ripeto, non dobbiamo lasciare neanche una mattonella alla contesa sul tema del pensiero critico, che deve ridiventare la nostra priorità. Allora, sono le 7:10, quasi due ore che siamo qua, se non ci sono un ultimissimo intervento o considerazioni volante. Adolfo, volante, volantissimo. Alla produzione, nel senso che secondo me è poi l'elemento che fa poi preoccupare sia i politici toscani che la controparte, diciamo, industriale, perché secondo me concretamente dà delle indicazioni anche rispetto a quello che si deve produrre e come si deve produrre. Una precisazione volantissima, ma solo volantissima. Una cosa è stata accennata prima sulla in questo libro, che l'operaismo ha parlato di composizione di classe, composizione tecnica, sociale, eccetera, e questo libro cerca di parlare della composizione umana, no? Dal punto di vista operaio, eccetera. E l'operaismo parla sì di composizione, ma anche parlando appunto della problematica della ricomposizione di classe, non solo la composizione tecnica, ma la ricomposizione, quella che il movimento. Quindi qui, per estrapolare quello che hai detto, mi sembra il punto cruciale è la ricomposizione umana, in questo caso il tema centrale, e questo chiaramente esce dalla fabbrica e dalla società, cioè ricompone, cerca, è una problematica che cerca di ricomporre quello che c'è poi in comune in modi e valenze diverse dentro la fabbrica e dentro la società in generale, che è il fatto che stai dentro un capitalismo claustrofobico che controlla e regola, cerca di regolare tutti i momenti della vita, in cui noi diversi aspetti del nostro essere umano siamo esposti contro questa misura delle cose del capitale, il fatto che sia in funzione del profitto, anche la riproduzione sociale, anche i servizi, anche tutto quanto, no? E quindi questo è un po' la sfida dell'immaginario di cui parlai, perché l'immaginario è l'acquistare il senso delle cose, un senso poi alternativo al senso che c'è, all'immaginario che è già dominante. Grazie Massimo, davvero. E direi concludere, e come diceva prima all'inizio Tego, era il primo appuntamento di una serie di appuntamenti, ci siamo già portati un sacco di compiti a casa, direi, con questo primo appuntamento. Vedremo il prossimo sarà il giovedì 4 dicembre alle 21 all'Abacu 16, gli operai votano a destra, destrutturare la narrazione per ricostruire la coscienza. Avremo il nostro ospite Tommaso Cerusici, sì. Non è giusto l'accento, perfetto, dell'archivio storico CGIL Reggio Emilia, e Alessandro Marzolino, questo lo so bene, che è appunto un attivista di Casabettola. E dopo qualche giorno, sabato 6 dicembre alle 17, questa volta che ci piace organizzare anche gli incontri in città, non solo qua a Casabettola, anche se ci troviamo bene qua a Casabettola, alle 17 la Gargotta del Popol Giost, e ci sarà la presentazione di un libro, Ristorai, il lavoro del cameriere, con Luigi Chiarella, che è l'autore, e che avremo con noi. E quindi grazie davvero, grazie per la partecipazione, e a Giovanni e Lorenzo per quello che c'è. Grazie.